Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata da Deborah Rosciani, ben trovati a Salva Danaio. Continuiamo a monitorare attentamente, lo stiamo facendo da molte settimane ormai, questa settimana in maniera molto più attenta probabilmente forse delle altre. Continuiamo a monitorare quello che sta accadendo sui mercati finanziari internazionali e questa mattina ovviamente il commento si riferisce in particolar modo all'esito del voto al congresso americano sul maxi piano di sostegno alle banche statunitensi da 700 miliardi. C'è stato finalmente, dopo che sembrava che la situazione fosse totalmente compromessa nel fine settimana scorso, c'è stato finalmente il sì da parte del Senato. Domani il provvedimento passa alla Camera dei rappresentanti, ma ormai dovrebbe essere cosa fatta. E questa iniziativa ha dato ancora fiato ai listini europei. Vedremo la reazione di Wall Street nel pomeriggio. Ieri sera per il mercato americano c'è stata nuova incertezza e una nuova chiusura negativa. In ogni caso la reazione della borsa europea è positiva. Positiva soprattutto a Piazza Affari, più 2,47% stamattina sull'S&P MIB, sul PNR dei principali 40 titoli e delle principali 40 società quotate appunto in borsa, con una seduta di nuovo di riscatto abbastanza significativo per i titoli di Unicredit, più 5,77%. In questo momento il gruppo riacciuffa i 3 euro. Dunque torna il sereno, ma continuiamo a ragionare in maniera quotidiana, diciamo. È molto difficile fare dei discorsi in prospettiva. Oggi tutti i grandi e piccoli investitori a quanto pare sono indotti a prendere delle posizioni di brevissimo respiro. Questo almeno sembra essere il suggerimento generale che stanno dando ai risparmiatori professionisti del risparmio. Allora noi, per commentare questa situazione, questa fase delicatissima per tutti, abbiamo chiamato Corrado Caironi, responsabile strategia di investimento per BlackRock Italia. Bentornato a Salva Danaio. Grazie, benvenuto e buona giornata a tutti. 800 24 00 24, numero verde come sempre che vi dà l'opportunità di interagire con noi. In caso contrario potete anche, se non volete intervenire in diretta, ci potete scrivere al 349 238 6666. Ed esattamente come sta succedendo da diversi giorni a questa parte, i messaggi cominciano ad arrivare subito e l'interrogativo principale risiede così nelle preoccupazioni legate al proprio rapporto con la propria banca. Abbiamo sentito le rassicurazioni prima di cominciare a commentare, Caironi, magari l'andamento dei mercati in prospettiva, cosa potrà accadere anche grazie al piano di sostegno americano, però insomma ribadiamo ancora una volta che non succeda, non lo so, un dissesto generale, la situazione delle nostre banche in Italia è solida, possiamo rassicurare i nostri ascoltatori? Poi sentiremo anche le parole di Tremonti. Sì, io direi di sì. Diciamo che in linea di massima proprio l'analisi anche che ci viene data dalla Banca d'Italia, che ovviamente fa dei controlli mensili, quindi è un controllo veramente a tappeto su tutto il territorio, secondo noi ci dà oggi una capacità di capire il sistema sta reggendo bene, ha la liquidità giusta. Abbiamo visto che comunque le nostre banche hanno, proprio perché molto orientate al retail, hanno solidità, quindi capacità sostanzialmente di intermediare correttamente, e soprattutto anche da un punto di vista di rischio abbiamo visto che il settore, se lo vediamo negli ultimi 2 anni, è migliorato tantissimo. Quindi diciamo che dai veri problemi che avevamo nel 2001, 2002, 2003, il sistema bancario oggi direi che si è riportato a livello internazionale, addirittura a livello europeo penso che sia uno dei che ha i ratios migliori in questo momento. Sulla solidità dal punto di vista della liquidità delle banche italiane, stamattina in un'audizione alla Camera è intervenuto anche il ministro del Tesoro Tremonti, sentiamolo. Le conseguenze della crisi sul sistema bancario e assicurativo italiano rimangono contenute. La situazione di liquidità della banca italiana è adeguata. Il governo, nella sede del comitato, ne ha preso atto. Il comitato ha ritenuto opportuno continuare a mantenere sotto costante osservazione la situazione. Al fine di proteggere il mercato italiano da attacchi di natura speculativa che trovano alimento dal perdurante clima di incertezza del sistema finanziario internazionale, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con il Governatore della Banca d'Italia, si è impegnato ad adottare le misure necessarie per garantire la stabilità del sistema bancario e per difendere i risparmiatori. E questo era il ministro Tremonti. Noi però stamattina, come vi ho già detto, analizzeremo un po' più in maniera ampia quello che accade sui mercati finanziari internazionali, per poter anche individuare, se possibile farlo in una fase delicata come questa, gli scenari in prospettiva. 800 24 00 24 per le vostre domande, però nella nostra scheda vi riepiloghiamo quello che è accaduto questa settimana. La settimana è iniziata nel peggiore dei modi. I timori legati all'espandersi della crisi finanziaria in Europa e l'iniziale bocciatura al piano di salvataggio statunitense hanno dato un'ulteriore batosta alle principali borse mondiali. L'epicentro questa volta è stato proprio il vecchio continente, con Amsterdam affossata dalla vicenda Fortis, il colosso bancario che in un lampo ha avviato un piano di nazionalizzazione parziale. Ma la fuga scomposta dai listini, accompagnata dalla discesa dei prezzi del petrolio, non è stata che l'epilogo di un mese, quello di settembre, che può essere considerato come il peggiore dall'inizio della crisi. Complici il fallimento di Lehman Brothers, il salvataggio del colosso assicurativo AIG e la decisione del governo statunitense di predisporre il maxi piano. Un mese che ha visto i principali indici mondiali perdere in media oltre 10 punti percentuali e che ha colpito soprattutto le borse europee. La crisi sembra ormai espandersi a macchia d'olio e così, in questo clima di diffusa incertezza, connessa anche alle difficoltà di prevedere la durata del fenomeno, non è certo facile dare consigli per mettersi al riparo, né tantomeno fornire strategie di investimento. La tendenza per i piccoli risparmiatori però è sempre la stessa: parcheggiare i propri risparmi privilegiando obbligazioni governative o impieghi a brevissimo termine. Ma in attesa che la nebbia si diradi, i più temerari e i grandi investitori ne approfittano anche per entrare a prezzo di sconto nel mercato azionario. Corrado Caironi, quando si potrà dipanare questa nebbia? Secondo lei il piano americano che arriva probabilmente nelle prossime ore, al netto di nuove sorprese che comunque hanno tutta la natura politica in queste ore negli Stati Uniti, ecco, servirà a dare un sostegno al mercato che potrà essere duraturo? Comunque dovremo ancora vedere altri fallimenti. Tra l'altro a Wall Street nelle ultime ore sta circolando la notizia di un altro possibile fallimento di un colosso assicurativo, nessuno si azzarda a fare nomi tra l'altro. Allora, sì, il piano sicuramente è importante e il dato di ieri sera al Senato, in cui 74 contro 25, quindi è stato anche un numero importante rispetto a quello alla prima bocciatura della Camera, secondo noi cambia lo scenario. Cambia lo scenario perché inizia a identificare le ragioni di questo problema, va a cercare ancora di più di trovare una regolamentazione adeguata a questo problema, che è uno dei punti chiave per cui il passaggio non è tanto i 700 miliardi di dollari. È importante, 700 è un importo importante, perché a questo punto va in realtà a sanare in maniera decisa quelle che potrebbero essere le problematiche. Abbiamo parlato anche di importi più alti. Che tempi di recupero abbiamo? Non è così immediato. Il salvataggio, il cosiddetto bailout package che abbiamo visto oggi approvato al Senato e che passerà alla Camera, oggi in realtà è un primo momento di riflessione su quello che sarà poi il vero intervento che verrà fatto nelle prossime settimane. Quindi il recupero non lo vedo immediato. Quali sono i tre elementi chiave che stanno dietro a questo salvataggio? Innanzitutto il tema forte è compriamo asset in questo momento tossici e li mettiamo in questo fondo, oppure vale la pena magari anche andare al di là e comprare addirittura le banche, quindi nazionalizzazione, quindi scontro politico che va verso questa direzione. Il secondo tema è quello del prezzo: a che prezzo andiamo a raccogliere questi asset, questi bond, perché possano sostanzialmente salvare da una parte le banche e dall'altra non penalizzare troppo il sistema, perché a questo punto qui potremmo avere un sistema che poi si incarta e che quindi non riesce poi a svolgere la sua attività ordinaria. Infatti lo dicevamo proprio ieri con alcuni docenti universitari nella trasmissione Focus Economia: non esiste nessuno in grado di dare un valore a questi asset tossici, nessun perito autorevole che possa stabilire quanto valgono e quindi a quanto anche il Tesoro americano possa fare questa operazione. E il terzo punto è le regole. Dunque, queste regole che ampliavano l'attività ovviamente per dar fiato all'economia partono dal 97 vengono introdotte queste regole in America e da lì nascono praticamente tutta una serie di strutture che hanno portato a questa evoluzione del mercato finanziario. Oggi dobbiamo trovare regole che vadano a ridimensionare probabilmente quelli che sono stati gli effetti eccessivi, però senza andare a far soffrire l'economia reale. E questo è forse il terzo elemento chiave che noi oggi dobbiamo mettere sul tavolo. Ha detto oggi, tra l'altro oggi non ho ricordato, c'è un altro appuntamento importante a Francoforte, la riunione della Banca Centrale Europea, una BCE molto sotto pressione in questo momento da chi chiede un alleggerimento della politica monetaria, anche se poi quello che potrà fare, ammettendo anche che abbassi i tassi di interesse portandoli al 4%, non so a che livello, servirebbe a ben poco se i tassi interbancari vanno per conto loro, Caironi, visto che anche stamattina abbiamo toccato un nuovo record, siamo per esempio per l'Euribor a 3 mesi, quindi nuove batoste in arrivo per chi ha un mutuo a tasso variabile, me compresa, al 5,33%. Sì, al di là del riferimento personale. Esatto, tanto ormai l'ho confessato a tutto il mondo. È preoccupante. No, in realtà sarà molto importante il segnale. Sono d'accordo sul tema del taglio più o meno evidente. Diciamo che in linea di massima oggi, diciamo, il sondaggio che abbiamo visto stamattina, ne parlavo con i colleghi nel meeting del mattino, c'è solo un 40% di probabilità che ci sia un taglio di 25 basis point, il 60% dice che lasceranno tutto invariato. In realtà è importante il messaggio, cioè come la banca centrale oggi si propone al mercato e quali sono le iniziative che inizierà a intraprendere da qui entro la fine dell'anno. Questo sarà molto importante. Il tema cruciale dei tassi interbancari è forgiato sostanzialmente sul problema della fiducia ed è tutto il problema della fiducia. Oggi leggevo di nuovo su Financial Times: confidence is crucial, cioè è lì il punto debole del sistema, perché se non c'è fiducia tra le banche, immaginiamoci la fiducia tra le banche e il sistema di economia reale, ed è un tema estremamente forte. Quindi il processo oggi si bilancia su 3 elementi. Il primo sicuramente è il piano di salvataggio, questo Troubled Asset Relief Program. È veramente il importante, TARP, sì, l'acronimo di questo piano americano, anche perché l'Europa potrebbe andare a seguire questo. C'è stato questa convocazione di Sarkozy, che ovviamente dovrebbe portare a fine settimana una prima discussione, è molto importante. Il secondo elemento è la banca centrale, che deve andare sostanzialmente a mantenere liquidità nel sistema, perché le banche non si stanno scambiando liquidità. Le banche non si scambiano liquidità per quel motivo che dicevamo prima, perché non sappiamo in pancia a queste banche se ci sono delle tossine così pesanti che potrebbero magari nel giro di qualche settimana far venir meno ovviamente questa banca nel mercato. Il terzo elemento, che secondo me anche qui è molto importante, è la tranquillizzazione del mercato finanziario, perché man mano che si crea panico nel sistema, vediamo quanto valore viene, diciamo, bruciato, no? Si usa dire questo termine, in realtà come viene ridotto la valutazione degli asset, e questo comporta in un effetto di fiducia meno garanzie per quanto riguarda ovviamente tutte quelle controparti che hanno questi asset, e una ricchezza che sostanzialmente non può essere poi dimostrata proprio per questo andamento negativo del mercato finanziario. Prima di cominciare a sentire i nostri ascoltatori, Giampiero da Firenze, le chiedo ancora un istante di pazienza perché volevo fare un'altra domanda a Corrado Caironi, la stessa che ho fatto 2 giorni fa a Stefano Rossi, amministratore delegato di Edmond Rothschild SGR in Italia. In tutta questa caduta dei mercati finanziari, molto amplificata nelle ultime settimane dalle prospettive incerte del passaggio del piano statunitense e dal crollo anche di alcune banche, secondo lei comunque ci sono state anche delle reazioni esagerate da qualche punto di vista, o comunque ancora tutto razionale quello che sta accadendo? C'è una componente irragionevole, l'emotività? No, l'emotività ha giocato fortissimo, soprattutto a livello di settore. Quella preoccupazione che dicevamo all'inizio, quando si parlava di banche italiane, magari anche banche medio-piccole, molto locali, che hanno sostanzialmente un mercato locale che diciamo in linea di massima si sono attenute a quelli che sono i regolamenti interni della banca centrale nostra, io ho l'impressione che abbiano subito sicuramente l'effetto dell'emotività. Quindi non c'è stata distinzione tra asset, tra settori, ma il mercato è stato colpito in pieno, anche perché il problema secondo me oggi della reazione emotiva porta a quello che abbiamo detto, no? Il cosiddetto panic selling. E il panico ha questo effetto di colpire perché non c'è ragione. Ecco perché il panico. E quando non c'è ragione, dico, ma perché vende? Ma sono preoccupato, qua bisogna tirar via tutto, io non so, ma dove li portiamo? E lì entra in gioco sostanzialmente questa che è l'effetto panico vero. Noi dal panico dobbiamo andare alla paura. La paura sì, è ragionevole, perché dietro ha una causa. Ho paura di, ho paura che. E una volta identificato la causa, che è esattamente quello che sta succedendo oggi con il piano di recupero che vuole essere fatto dalla banca americana e dal tesoro americano, ho la paura, vado a identificare la paura, allora se tolgo la causa, ecco che ragionevolmente mi ritorna la fiducia nel sistema. Quindi oggi il passaggio che io vedo è questo: dal panico spostare l'attenzione non al panico, ma far ragionare, andare a verificare, andare sul piano razionale, dal piano razionale identificare le cause, dalle cause ovviamente portare di nuovo fiducia attraverso che cosa? La rimozione di quelli che sono stati gli eventi estremamente difficili che hanno portato il mercato in questa situazione. Allora, sentiamo su che cosa hanno voglia di sollecitarla questa mattina i nostri ascoltatori. Buongiorno e benvenuto a Giampiero dalla provincia di Firenze, 800 24 00 24, numero verde per i nostri ascoltatori. Giampiero. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Tutti, innanzitutto. Buongiorno. Dopo queste considerazioni sicuramente interessanti, io avrei voglia di fare una domanda molto personale, ma che credo mi interessi anche altre persone che come me hanno fatto degli investimenti, però che reputavano decisamente tranquilli. E parlo in speciale del mondo delle obbligazioni della Morgan Stanley. Sì. Che hanno dei rendimenti decisamente bassi, per cui io che sono un neofita e non sono una persona sicuramente addentro a tutti questi meccanismi, ritenevo comunque abbastanza tranquilli, proprio per la solita equazione che facciamo noi formichine, come mi chiamo io, che facciamo l'equazione dove appunto rendimento basso sicuramente pericolo quasi nullo. Oggi mi sembra che le cose non stiano così, quindi la domanda che volevo fare è: cosa rischiamo noi e cosa conviene fare per il futuro chi ha sottoscritto questa obbligazione? Una domanda, Giampiero, che ho fatto anche ieri ad un ascoltatore che ha un caso simile, ha comprato un'obbligazione bancaria molto recentemente. Mi chiedo per esempio in che fase temporale le abbia fatto questo investimento, per capire in che maniera gliel'ha posto anche questo investimento come suggerimento la sua banca, il suo intermediario. Giampiero? Io l'ho fatto un anno e mezzo fa e la mia banca, che poi è l'Intesa San Paolo, me l'ha proposto come una cosa piuttosto tranquilla. Oggi mi sa che non è più così. Beh sì, un anno e mezzo fa non si erano ancora viste proprio le avvisaglie di questa terribile crisi finanziaria. Giampiero, la ringrazio. Allora, dottor Caironi, l'oggetto oscuro all'interno del portafoglio di molti italiani, l'obbligazione bancaria. Morgan Stanley, intanto diciamolo che ha modificato i suoi parametri di operatività, è diventata una banca commerciale. Corretto. Con la possibilità quindi di accedere a tutte quelle che sono le funzionalità, se le facilities, si trovasse, esatto, come vengono chiamate dalla Fed, quindi capacità di andare a portare i propri asset, ricevere liquidità, eccetera. Tra le altre cose sappiamo in questo momento che è anche all'attenzione di altre banche che sono interessate, visto i prezzi che stanno scendendo e soprattutto il business che è dietro un nome di questo tenore. Quindi certo, i prezzi delle obbligazioni sono scesi tantissimo, perché la tensione che è nata sostanzialmente sempre, riportiamo quel discorso del subprime, cioè tutta quella parte di prestiti che erano stati legati a garanzie reali, che erano le case, gli immobili e non alle persone, hanno trovato a un certo punto una crescita di quelle che erano le cosiddette default delle rate, quindi la gente che non è più riuscita a pagare. Quindi questo elemento ha creato all'interno di queste strutture un depotenziamento del capitale. Ecco perché oggi siamo in difficoltà, ma questo un po' su tutte le grandi banche. Tutte le grandi banche hanno sofferto di questa situazione, chi più chi meno. Poi abbiamo visto anche addirittura dei default proprio delle banche, quindi Lehman Brothers che addirittura ha dovuto portare i libri in tribunale perché non riusciva a gestire questa situazione. Che cosa ci aspettiamo in questa fase? Beh, in realtà la situazione è molto difficile da interpretare. Sicuramente un fortissimo sollievo sarebbe la creazione di questo piano, che dovrebbe essere ormai in fase di approvazione. Questo andrebbe sostanzialmente a rivedere completamente questa tipologia di prodotti, quindi tutte queste obbligazioni, e questo sarebbe anche un punto chiave. Quindi oggi idealmente non è che ci siano tantissime cose da fare, dobbiamo stare molto attenti. Personalmente dico che se dovessi guardare avanti e soprattutto consegnare al signor Giampiero, idealmente mai comprare un'obbligazione sola o 3 o 4 o 5. Questo, cioè, da qui in avanti, però io direi un bel po', addirittura sarebbe molto interessante, a mio parere, uscire dall'obbligazione e soprattutto quando ci saranno i prezzi interessanti e magari andare su un fondo comune che fa questo tipo di lavoro. Quindi, no, abbiamo visto questi diversificare gli emittenti, in sostanza. Distressed debt, no? Mm-hmm. Che vengono chiamati, difficilissima quella parola, però diciamo che ci sono dei fondi che vanno a raccogliere questo tipo di obbligazioni e vengono gestite, e a questo prezzo c'è una combinazione, no? Esco magari da un'obbligazione oggi sul mercato, una sola, e mi appoggio a un gestore che mi fa questa attività di diversificazione e di gestione, per cui è lui che sceglie, va a vendere e comprare nel mercato, trova anche delle opportunità in questo momento, e sostanzialmente mi vado a togliere un po' di peso da quello che potrebbe essere il rischio specifico di quella società. Quindi questo è il primo punto. Guardando avanti, quindi, idealmente sono situazioni che vanno gestite nell'ambito anche di una relazione di consulenza, perché dare sempre per scontato tutto non è poi una cosa molto molto ovvia. Però ecco, banalmente, per tranquillizzare Giampiero da Firenze, la banca è solvibile in ogni caso, se lui dovesse portare la sua obbligazione a scadenza ad oggi diciamo che, e poi a fronte di questo piano di salvataggio, ovviamente la situazione sembrerebbe comunque molto rasserenata. Eccoci ancora a Salvadanaio, ancora a monitoraggio molto attento alla situazione che si sta manifestando, che si sta creando, determinando sui mercati finanziari internazionali. Oggi abbiamo il sereno in borsa perché il Congresso americano è pronto a varare il piano di sostegno alle banche americane. Mi fa proprio fatica parlare di piano di salvataggio, anche se poi nei termini reali è così, perché in realtà, insomma, al momento dopo Lehman Brothers nessuna banca è più fallita, a parte piccole in precedenza, però in sostanza con questo piano il Tesoro americano rileverà quelli che abbiamo già definito con Corrado Caironi stamattina, ma insomma la definizione che troviamo su tutti i giornali, gli asset tossici, e quindi è un piano di sostegno per poter continuare ad operare e a tranquillizzare la comunità finanziaria internazionale. In questa prospettiva borsa positiva questa mattina, ma ancora umore dei piccoli risparmiatori piuttosto cupo, perché in questi giorni hanno visto anche andare sul lotto volante i titoli per esempio della propria banca di riferimento, e anche questo ha continuato a generare confusione. Gerardo da Padova, benvenuto a Salvadanaio. Gerardo, si è stancato di aspettare? Sì. Eccoci. Sì, ecco. Buongiorno. Buongiorno. Volevo fare una domanda io, chiedere un consiglio. Ho da poco praticamente, io ho venduto un immobile e quindi ho realizzato una cifra abbastanza importante, e chiedevo se il mio orientamento è quello di reinvestire, acquistare un altro immobile, visto l'incertezza che c'è attualmente sui mercati. Ritengo che la cosa più sicura potrebbe essere quello di reinvestire su un altro immobile, e quindi volevo chiedere se è il caso di, sì, può essere una scelta giusta questo, magari all'orizzonte può verificarsi un forte ribasso degli immobili. Ecco, quindi insomma il punto è quello, che è sicuramente quello su cui il nostro ospite di questa mattina può spendere qualche parola. Però Gerardo, la domanda che le volevo fare è, naturalmente credo che lei stia parlando di un puro investimento, non è la casa nella quale abita. No, non è la casa nella quale abito, un puro investimento, ecco. Visto di tenere fermo una cifra importante magari sul conto in banca, perché non me la sento attualmente, non penso sia finita questa crisi sui mercati. Gerardo, mi diceva prima a microfoni spenti Corrado Caironi, solo per capire, dipanare la matassa Lehman Brothers occorreranno almeno 4-5 mesi, figuriamoci poi per dipanare tutto il resto. Però l'ambito immobiliare, il tema che pone Gerardo è esatto, visto che lo consideriamo un po' come il titolo di Stato, il mattone. Sì. Però insomma i prezzi scenderanno ancora, e è anche un mercato molto difficile da comprendere, no? Perché abbiamo visto in questi giorni, per esempio nel centro di Milano, prezzi che tornano a crescere anche negli immobili, cioè tutta la crisi ha portato a disinvestire sostanzialmente, magari dal punto di vista di finanziario, e a spostare di nuovo l'attenzione su quello che potrebbe essere un bene rifugio come l'immobiliare, mentre invece fuori dall'area centrale di Milano abbiamo visto i prezzi che stanno scendendo ancora parecchio, e anzi sostanzialmente c'è un eccesso di offerta dal punto di vista immobiliare importante, perché non dimentichiamo che negli ultimi 2-3 anni c'è stato un ampio investimento, e quindi sono nate tantissime. Un eccesso di offerta, mi sento anche da dire di un'offerta rigida, perché i venditori non vogliono abbassare così i prezzi, devono farlo. Così è, così. Allora, io partirei però giusto un attimo prima. Allora, siamo davanti a un rallentamento economico, soprattutto in Europa, quindi, e questo lo vediamo vediamo anche in Italia. Sarà recessione secondo lei anche qua? Intanto non parliamo di recessione perché vuol dire che siamo molto bassi, ma in realtà c'è ancora una crescita ed è una crescita abbastanza lineare, quindi siamo anche in attesa di capire la banca centrale che cosa avrà intenzione di fare, se sarà solamente orientata all'inflazione, potrebbe cominciare invece a parlare anche di riduzione dei tassi, che sarebbe magari una cosa molto importante nei prossimi mesi. Ma detto questo, rallentamento vuol dire che in realtà ci sarà meno corsa verso gli immobili. In generale questa offerta molto ampia potrebbe andare a identificare in alcune situazioni, ripeto, in alcune situazioni anche una forte diminuzione dei prezzi ancora dell'immobiliare. Quindi è chiaro che se io sto investendo in un'area particolarmente importante, in un'area particolarmente interessante, eccetera, probabilmente anche a questi prezzi si può entrare, anche perché ho un investimento di così lungo termine. No, anche perché mi veniva da dire, il nostro ascoltatore ha comunque una certa liquidità disponibile, ecco, può anche trattare per ottenere uno sconto di prezzo, non ha bisogno di ricorrere al debito, quindi... Idealmente suggerirei anche un'altra cosa. Questa liquidità, se io non riesco a identificare subito qual è la mia porzione di immobile, o comunque voglio, tra virgolette, fargli il filo per un certo tempo, ecco che in questo momento potrebbe comunque investirlo, tenerlo magari su un fondo di liquidità e magari addirittura anche andare a compricchiare qualche fondo immobiliare se ha paura che i prezzi scappino e quindi vuole indicizzarsi, tra virgolette, a un mercato immobiliare. Quindi utilizzare i fondi real estate, i fondi finanziari in questo caso, e poi man mano, una volta identificato l'immobile, tornare su questo. Fondi di liquidità, lei ha detto, allora le giro subito due domande di due ascoltatori che vogliono chiederci lumi proprio a proposito di questo tipo di investimento. Gino da Pisa, buongiorno. Gino, sì, buongiorno. Eccoci, ci dica tutto. La mia domanda è questa. Io ho chiamato proprio in merito a questi fondi di liquidità. Mi è stato esposto dal mio istituto, dalla mia banca praticamente, che non erano assolutamente rischiosi, però se ne sente dire tante in questo periodo. Volevo un attimino capire che rischi stiamo effettivamente correndo in questo momento. Sì. Con questi fondi di liquidità, ecco, premesso la banca lei... è una affiliata del Banco Popolare. Senta Gino, ma se io le chiedo a bruciapelo, lei sa com'è composto questo suo fondo? Ha dato un'occhiata al suo prospetto di investimento prima di chiamare Salvadanaio? Assolutamente no, perché mi è stato detto che sono fondi di liquidità e basta dal mio istituto di credito. Però sì, ci vado a dare un'occhiata perché poi è anche malposta la domanda, con tutto il rispetto Gino, ma questa è una considerazione di assoluta protezione da parte mia nei suoi riguardi, nel senso che comunque mi è stato detto non va mai bene, quindi prima di tutto magari cerchiamo di capire bene cosa andiamo... Sì, è corretto questo. Metto insieme anche Caironi la domanda di Davide dalla provincia di Vercelli. Sì, buona giornata e grazie per il vostro servizio. Sì. Io premetto, sono un lavoratore dipendente, mastico poco di economia, certo. O meglio, qualcosina lo mastico grazie a voi adesso. E volevo chiedere solo una piccola domanda. Noi abbiamo messo i nostri risparmi del nostro stipendio in un fondo monetario della nostra banca, Banco Popolare di Milano, BPM. Sì. E proprio per il fatto che stiamo cercando l'acquisto della prima casa e quindi abbiamo anche bisogno di questa liquidità in maniera immediata. La mia preoccupazione è solo sapere, e mi addosso la mia colpa di non aver chiesto in che fondi vengono investiti, e sapere se comunque ci hanno sempre dipinti come qualcosa che rende non tantissimo, ma quel poco è sicuro. Ma non ci si perde, insomma, quantomeno conserva tutto quello che ha, Davide. Insomma, sì, abbiamo due casi assolutamente simili. Cosa c'è generalmente dentro un fondo di liquidità, Caironi? Allora, il fondo di liquidità, nella sua logica, è quello di avere degli asset che hanno delle scadenze molto brevi. Quindi questo è il dato sicuramente che tutti i fondi monetari o di liquidità dovrebbero rispettare. Quindi questo è un vantaggio perché si toglie il rischio, chiamiamolo così, di duration, cioè quello della curva, e quindi vado a togliermi tutti quelli che sono gli investimenti che hanno, non so, 3, 4, 5, 10 anni o più anni. E vado a concentrarmi, diciamo, in linea di massima su obbligazioni o comunque titoli obbligazionari di massimo 18 mesi. mesi. Quindi questo è molto importante, perché quello che diceva appunto il nostro ascoltatore è quello: non voglio prendermi un rischio e sicuramente andrò a consumare questi soldi con un orizzonte temporale di un anno, 8 mesi, 3 mesi, eccetera. Quindi diciamo, nella questo teoria, molto, per un ascoltatore che voleva accantonare del denaro perché in prospettiva vuole comprare è lo strumento giusto. Perfetto. L'altra cosa però è quella che sottolineavamo: siccome quando io parlo di strumenti obbligazionari posso parlare di botte e posso parlare anche di obbligazioni di una corporate, che potrebbe essere anche una società che fa automobili, che quindi va a chiedere al mercato un'emissione, obbligazione tipo che General Motors, potremmo trovarcela dentro un fondo di liquidità, mi che potrebbe dicendo. Scadere nel giro di 4, 5, 6, 7 mesi, potremmo anche trovarlo in un fondo di liquidità. Da che cosa dobbiamo quindi stare attenti per capire quanto io rischio ho all'interno di questo fondo di liquidità? Dobbiamo guardare, punto uno è il benchmark, quindi capire se il benchmark dice titoli obbligazionari governativi. A questo punto saranno governativi, quindi non ho una preoccupazione che vada. È chiaro che se io invece trovo dentro degli indicatori di benchmark molto diversi, potrei trovare magari invece all'interno, dicevamo, anche delle obbligazioni societarie diverse. Quindi è molto importante identificare il benchmark e guardare sostanzialmente al prospetto informativo. Però insomma, nella loro accezione nella loro accezione teorica, missione teorica, dovrebbero essere prodotti che salvaguardano almeno nel breve periodo il nostro capitale, sì. Anche se non sono completamente privi di volatilità, ecco. Molte volte abbiamo visto alcune emissioni che proprio per dare un po' più di risultato a questo fondo monetario rischiano sostanzialmente anche un pochino di più, e quindi potremmo vedere una volatilità molto alta anche in un fondo monetario. Consiglierei di guardare con attenzione appunto al benchmark di questo prodotto. Igino da Verona, buongiorno, ritorniamo ai dolori di questa particolare fase di mercato, benvenuto. Sì, grazie della possibilità di partecipare. Dunque, io volevo chiedere questo: ho acquistato tramite un promotore finanziario di un gruppo collegato a Unicredit dei certificati della Lehman Brothers. Sì. Ecco, io volevo capire adesso che cosa succederà, cioè l'Unicredit in qualche modo mi darà una mano, oppure non so, dovrò aspettare appunto l'evoluzione di questo fallimento, insomma. Posso rivalermi in qualche modo, cioè che tipo di suggerimento potete dare? La rivalsa verso la banca, Igino, dipende strettamente dal tipo di condizioni in cui è maturato il suo investimento. Se il promotore le avesse fatto firmare perché lei non era in grado di intendere e volere un foglio in cui le faccia fare questo investimento, si può rivalere contro la banca. Non mi sembra una persona così sprovveduta, è andata incontro ad una bancarotta che era disattesa per larga parte, insomma, del mondo finanziario. Però è un'obbligazione quella che ha Caironi, il nostro ascoltatore. Sì. È abbastanza complesso, no? Perché poi sembrerebbe una cosa sì, no, me lo rimborseranno, non me lo rimborseranno. Sembrerebbe una risposta facile, invece in realtà è un percorso molto più lungo, lo dicevamo prima. Lehman Brothers ha consegnato i libri e ha chiesto il chapter 11, cos'è il capitolo 11? Capitolo 11 è un prefallimento, quindi non è ancora il fallimento, ma un prefallimento. Quindi è consegnato in mano a un commissario, quale commissario sta cercando di andare a capire quali sono gli asset che ha la banca e quali sono i debiti che deve pagare, e da lì inizierà un percorso di ricostruzione. E all'interno di quelle che sono le obbligazioni, in questo caso andrà a valutare che tipo di obbligazioni sono state emesse. Anche qui ci sono delle obbligazioni dei creditori privilegiate e subordinati, signority, no, vengono chiamati senior, junior, eccetera eccetera. Quindi ci sono dei creditori che hanno sostanzialmente la possibilità di partecipare molto più in fretta al riparto di quelli che saranno gli utili, e gli ultimi invece probabilmente, compreso gli azionisti, che probabilmente, se non ci saranno più poi ricavi, saranno costretti ad eliminare. Quindi questo è un processo abbastanza lungo. Il credito Unicredit che cosa ha in questo momento in mano? In realtà abbiamo in mano questo credito, questa obbligazione, e quindi dobbiamo aspettare questo percorso che verrà svolto. Però intanto, Igino, magari si faccia, allora noi le preannuncio già che settimana prossima ritorniamo ancora con le associazioni dei consumatori a dare indicazioni a chi ha in mano portafogli o in portafoglio queste obbligazioni, che al momento saranno lì incagliate perché non c'è neanche liquidità sul mercato per poterle piazzare, molto difficile. Associazione dei consumatori, si faccia però anche una chiacchierata col promotore, tanto per curiosità, per capire che tipo di risposte le dà. Continui a ascoltare anche Salvadanaio e vedremo se ha voglia anche ci scrive, magari cercheremo di darle qualche indicazione un po' più precisa. scenari di investimento, almeno quelli che è possibile disegnare in una fase delicata come questa. Questa mattina con Corrado Caironi, responsabile strategia di investimento per BlackRock Italia, è una società di gestione di dimensioni imponentissime. Caironi, in questo momento però forse anche per voi è un attimo di ripensamento non indifferente. Sì, siamo coinvolti soprattutto anche in America con questo BlackRock Solution, che è il nostro, la nostra piattaforma, dove la banca centrale ci ha coinvolto sia per quanto riguarda l'analisi dei fondi che Fannie Mae e Freddie Mac, che abbiamo sentito molto parlare in questo periodo, e diciamo che siamo coinvolti proprio in questa analisi. Fortunatamente, essendo una società indipendente, quindi facendo fondi come un investimento, non avendo ovviamente quindi rapporto di debito o di credito, siamo abbastanza tranquilli, anche se vediamo che i mercati ci stanno condizionando, insomma, penalizzando un po' tutti. Allora, tra l'altro, prima di sentire i nostri tre ascoltatori in attesa, magari volevamo fare un'altra piccola serie di suggerimenti a chi ha obbligazioni Lehman in questo momento, non è in grado di avere delle risposte anche dalla banca, per non saperne leggere né scrivere. Mettiamo però per iscritto una richiesta di chiarimento al nostro istituto di credito. Che sì, dice? Anche perché io ho l'impressione che normalmente anche tutti i privati in questo momento qua siano in tensione su questo, quindi mandare sostanzialmente anche una lettera per chiedere magari spiegazioni potrebbe essere molto utile, e soprattutto anche per essere coinvolti poi da vicino se ci fossero delle evoluzioni su infatti, infatti, ed è tra l'altro questo l'orientamento che stanno suggerendo tutte le associazioni dei consumatori. Allora, Enrico da Roma, benvenuto. Buongiorno, grazie per lo spazio. Dottoressa, io come tanti altri che ho ascoltato in precedenza sto per ottenere una polizza che mi scade il 13 di ottobre, una cifra non estremamente consistente, sono circa 100.000 euro, però sono dei soldi naturalmente importanti. Enrico, buttiamoli via e ci mancherebbe altro. Però il problema che ci si pone, che ci stiamo ponendo tutti è: va bene, ho dei soldi liquidi in mano, che cosa ci devo fare? Allora, naturalmente la prima cosa che in questo momento uno tenderebbe a fare, vabbè, pronto contro termini, CCT, qualsiasi cosa che ci dà una garanzia, e questo è una cosa sicuramente logica che molto probabilmente farò. Però c'è anche una riflessione da fare, credo di dover fare, e vorrei ascoltare il vostro esperto che cosa ne pensa. Io ho 58 anni, ho visto il trend delle borse da 30 anni, diciamo, è evidente che la situazione attuale di un MIPTEL a 20.000, 19.000, 20.000, un giorno sì, un giorno no, e prima o poi, ma la borsa in senso lato, generale, dovrà riprendersi, perché i trend poi storici, i grafici storici delle borse sono questi, il momento di... Nel lungo periodo, insomma, la tendenza è sempre positiva. Questa tendenza si dovrebbe cambiare, quindi è bene adesso mettere questi soldi al riparo, ma poi ritornare a un investimento di borsa che era 32.000 un anno fa e che è 20.000 oggi, che sicuramente, se i fondamentali sono buoni e stiamo parlando di crisi finanziaria, dovrebbe ritornare su. Grazie Enrico. Ma io, per non saperne leggere né scrivere, senza fare questo mestiere di professione, me ne guardo bene perché non saprei da dove cominciare, però li spezzetterei questi 100.000 euro. Bravissimo. Dobbiamo andare così. Oggi il passaggio è questo, cioè chi ha la liquidità oggi si dice cash is king, cioè la liquidità oggi è re, e quindi in questo momento effettivamente verrebbe voglia di dire: tengo la mia liquidità, la metto in un bel CCT, la metto in un bel titolo di Stato, ma a brevissimo termine, quindi si sono tranquillissimi. Però lui ci pare una persona molto... Ma esattamente molto, quello che va fatto. Se io ho un orizzonte temporale comunque di medio termine, e visto che negli ultimi 20 anni, lui diceva addirittura 30 anni, ma negli ultimi 20 anni abbiamo visto l'82 con la crisi, l'87, abbiamo visto il 91, abbiamo visto il 97-98 con il problema asiatico, eccetera, abbiamo visto il 2001-2002, eppure le borse si sono sempre comportate, poiché a un certo punto hanno ripreso. Allora qui che cosa bisogna fare, secondo me? Da qui ai prossimi, pianificare ovviamente degli ingressi dei prossimi mesi, andare a fare una programmazione, entrare quindi nel mercato sistematicamente, quindi non lasciandosi quindi andare ad affascinare dal momento più o meno, e soprattutto non andare a fare stock picking, perché non vale la pena in questo momento qua. Quindi programmare delle entrate, che secondo me diventano delle cose estremamente interessanti. Diversificazione, e qui io andrei su tutte le classi di attivo, cioè trovare un fondo che mi investe e che si preoccupa lui di mettermi una parte di liquidità, una parte in bond, una parte di equity, che usi il real estate, che usi le commodities, che in questo momento sono scese tutte insieme, perché il rally che c'è stato negli ultimi 3 anni ha portato tutte le classi di attivo, forse troppa liquidità, forse qualcuno troppo, si è lamentato molto anche di questo, di Greenspan, l'1%, eccetera eccetera, ma anche il real estate, che tendenzialmente dovrebbe essere invece quello che va su più lentamente. Quindi ritorno verso queste classi di attivo molto diversificate, e soprattutto in un fondo dinamico. Cosa vuol dire dinamico? Che è un gestore che mi fa analisi e che mi entra e mi esce dalla liquidità, e va lui a andare a compensarmi quelle che sono le opportunità tra le classi di attivo. Quindi secondo me sta ragionando molto bene questo signore. Benissimo. Allora, a proposito dai citati piani di accumulo, Diego da Lodi, rapidamente, poi sentirei anche la domanda rapidissima di Anita da Pisa per chiudere con questi due interventi. Diego, salve, buongiorno. Buongiorno. Un'informazione, io ho dei PAC, dei piani d'accumulo. Che impatto può avere questa crisi su dei PAC e come muoversi? Nel senso, il consiglio dell'esperto è sospendere, incrementare l'investimento perché le quotazioni sono basse e quindi avrà un ritorno futuro maggiore. Diego, Corrado Carone vuole fare una domanda. No, volevo sapere che tipo di fondi c'erano sottostanti a questi piani di accumulo. Dei global equity azionari, bravissimo. Degli European equity. Beh, l'impatto è che adesso sta comprando l'impossibile. In questo momento qua, a parità di rata, mi sta comprando molte più quote rispetto a quello che potevamo comprare negli ultimi 18 mesi, negli ultimi 24 quindi mesi. Quindi questo è l'impatto quindi più immediato. Questo è quello più interessante. È chiaro che sull'ammontare complessivo accumulato sino ad oggi probabilmente vediamo una diminuzione sostanzialmente di quelle che sono le valutazioni, però è anche il momento in cui, secondo me, sospendere un PAC in questo momento direi proprio di no. Anzi, direi che ha la forza magari invece di aumentarlo, perché ci sarà il recupero probabilmente. Noi abbiamo questa impressione che nel giro di 12-18 mesi, diciamo, che dovremmo tornare già a vedere una borsa che tornerà a essere capace di riprendere il valore, e quindi ecco che il fatto di investire a dei livelli abbastanza bassi come questo a livello di crisi secondo me porta un beneficio. Abbiamo 1 minuto e mezzo di tempo, allora Anita, non ne abbia male, sintetizzo io la sua domanda che voleva rivolgere a Caironi, così non perdiamo tempo. Nel portafoglio ha fondi investiti in Cina e fondi investiti in India, che cosa rischia in questo momento? Ma il rischio direi che è più legato alla volatilità rispetto magari a quelle che potrebbero essere dei rischi veri a livello finanziario, perché abbiamo davanti sostanzialmente due nazioni che in questo momento stanno soffrendo di riflesso alla globalizzazione. La Cina, tra le altre cose, è scesa tantissimo, e ho l'impressione che questo sia un momento comunque buono per tenere in posizione la Cina. Addirittura qualcuno potrebbe con un piano di accumulo magari entrarci. I prezzi sono interessanti, la struttura addirittura di governo oggi sta pensando di diminuire i tassi, quindi di dare un fiato un pochino a quella che è un'economia che sembra in fase di rallentamento, ma in funzione di un fattore molto importante, diminuzione dell'inflazione. Quindi l'inflazione, che era proprio l'elemento difficile da gestire, è stato gestito. La Cina aveva alzato i tassi tantissimo, ha cominciato ad alzare i tassi dal 2000, non aveva mai smesso, e per la prima volta qualche settimana fa ha diminuito i tassi. Quindi io sono contento che ci sia oggi nella parte emergente asiatica, e questo anche per l'India, che aveva dei prezzi estremamente alti. Ne avevamo parlato nell'ultima nostra trasmissione, e ho l'impressione che oggi i prezzi siano ridimensionati molto. Aggiungo solo una cosa anche qui: Cina e India, io preferirei sempre comunque l'Asia, diciamo, più diversifico e ho meno rischio, però diciamo in linea di massimo oggi i prezzi sono interessanti. Caro, non ci sentiamo prima di Natale? Va bene. La invitiamo qua ufficialmente. Grazie molte per essere stato con noi, al responsabile di strategia di investimento per l'Italia di BlackRock, Corrado Caironi. Grazie a Gaia Romani, Valeria Coffaro per la collaborazione in redazione, Giorgio Matei in assistenza tecnica. Noi torniamo domani. Buona giornata a tutti.